sono 7 addirittura. La ricezione di tutti, compresa anche la tua, vedo qualche puntino in più, ma niente di che. Evidentemente la tua zona con la mia non è favorevole, ma quelli che ho favorevoli sono saliti tutti, tutti. Marco era 9.32, è arrivato a 9.35. Antonio Bombolo era 9.10 e è passato quasi a 9.15. Un po' tutti, capito? Io, per carità, Tino, rispetto a quello che dici, però sei l'unico che non, evidentemente non ho incrementato niente, capito? A Porto Torres addirittura ho incrementato di 5 punti, fatti un conto. Ma non mette in dubbio, io ti sto dicendo quello che è vero, mi sono andato anche una foto, giusto per farti vedere come cosa arriva, perché se non hai avuto volte poi le cose si dicono e si vanno a interpretare male. Ma ti ripeto, sei l'unico che me lo dice, anche perché con lo smitter così a LED può essere differente, capito? Sull'analogico incrementato a tutti. Tutto Marco attenuato, gli arrivavo 5, adesso attenuato gli arrivo 7. È una prova molto molto valida. Comunque non è un problema, non l'ho messa lì per avere punti o per essere più forte, l'ho messa lì perché la qualificazione è molto più tosta, già la conosci anche tu, quindi almeno non ho problemi, visto che antenne non ce n'è più sul tetto, ho fatto questa scelta. Siccome c'erano i pali, li ho tirati su tutte e tre, capito? Niente di che. Con questa radio, Claudio, quant'è che ti arrivo? Con questa radio ho superato anche a Tino, sì, 9.25. E 9.30 qua. Sì, 9.25, mentre con l'altra c'è 9.20. Vabbè, 5 punti guadagno, con questa qua. No, ma te l'ho già detto ieri, è una canonata, c'è di picchi di modulazione allucinanti, molto molto forte. Molto molto forte, vai ti. Ascolta, tu che hai più scuola, più esperienza anche di me su questo radio qua, il filtro IP, io ce l'ho inserito, quindi giustamente se lo disinserisco arrivi più forte. Cazzo, cioè mi tieni un 4.50 con l'IP inserito, io non musco. Io devo fare incazzare la gente, sì, lo tengo così perché se no arriva un segnalone oltre che non va bene, capito? Quindi devo dare sempre il segnale più basso io. L'RFI? Sì, ma lui già l'ha detto perché lo sa che io la conosco con la radio. Sta invecchiando, Tina lì. Cazzo, mi dai un controllo con l'IP inserito? Buh, Gannino, no? Cosa, Claudio? Ma io a certe volte non capisco se devo continuare a prendere in giro o meno. Sì, è una cosa allucinante, Gilles. È chiaro che il segnale si abbassa, la mazza di nell'aria. Quello è un grandissimo strumento, nel senso che ti dà la possibilità di attenuare, ma allo stesso tempo ti dà il segnale vero, reale, capito? Però ti toglie qualche, mi pare che attenua, fa 10, 18 e 20 dB attenua, così è. Sì, dai, comunque ti ho mandato la foto reale, ti ho mandato la foto reale così almeno dormi tranquillo, per una apposta, Ma io ti ho detto, rispetto alla tua cosa, però può darsi che la radio, essendo un semidigitale, quindi a LED, il segnale sia diverso, ma quello che mi hanno detto gli altri ti ho detto la pura verità. Vediamo. Cazzo, va bene, vedi, un punticino in più, dai, un punticino e mezzo, sì, ma anche tu, tutti avete aumentato. È normale, è normalissimo, va bene. Che delinquente che sei, cazzo. Dove arrivi a Tino tu? Gli arrivo dopo il 20, 9, 21, 22 sto vedendo qua, una cosa del genere. Sì, 9, 22. Più o meno come arrivi a Porto Torres, dai. Io l'ho sentito stasera, come si chiama, Giancarlo, Buccarlo. L'ho sentito che ti stava nel controllo, ti ha dato 9.20. Claudio, da Claudio siamo di fronte, te l'ho detto dove è Claudio. Claudio è praticamente al faro, dove c'è il faro a Porto Torres, capito? Già la conosci quella zona, è un bel alto, siamo di fronte, cioè io da Porto Torres sì, 9.20 gli arrivo, così come sono adesso. Lui mi arriva 9.10 con picchi hanno quasi a 9.15, ha un segnalone allucinante. Beh, mi ha mandato una foto anche in Giulio, lo stesso segnale che mi hai detto tu col digitale, me lo sta dando Giulio, era 9.18 e sono 9.21, quasi 9.22 anche sulla radio di Giulio. Allora vedi che non sbaglia questa, anche se digitale, semidigitale, dove ti dica, non sbaglia, è che io molte volte, adesso per dire Gianni, non ho controllato il tuo segnale, però credo che oltrepassi il 9.30, prova a parlare. Guarda, non lo so. Che ha ammazzato io a lui. Sicuramente con le altre ti arrivavo sul 9.30. Sì, Gianni. Vai oltre i 9, quasi 9.40, capito? Ma è tutto da vedere, eh? Paga. Giulio! Dimmi! Claudio, per fare una prova un attimo, si è aumentato, a posto. Vedi, Luca 9.20. Ma io questi segnali qua sono più reali, secondo me, se tolgo il filtro. Perché mi sembra strano. Luca 9.20, comunque, da dove stai modulando. Luca! Te la prendi in quel paese, eh? Giulio, tu quasi 9.40, eh? L'ho ammazzato a Gianni, allora. Sta scherzando, Ciao, no. Come vedi, Claudio, mi arriva, mi ha mandato anche la fotografia appena fatta in questo momento. Va bene, e con qualche piccolo anche di modulazione va anche oltre il 9.20, 9.21, 9.22. Va bene, a voglia. E in qualche punto già l'ha guadagnato, da quando ha tirato sull'antenna. Poi un granché rispetto a prima, perché prima era 9.18, adesso è 9.20, siamo lì. Comunque due punti esse è già qualcosa di importante, no? Non vi sembra? Buonasera a tutti comunque, vi sto ascoltando. Ciao Giulio, ma l'hai messa sul tetto? No, scusate, allora sia Gianni che Giulio avete lo stesso identico segnale, quindi se parla uno parla l'altro, mi sono accorto un po' così perché c'è stato un attimino di bianco e ti ho riconosciuto Giulio, però diciamo che se parlate in due non capisco né uno né l'altro, vi annullate entrambi, eh? Beh, sono due segnaloni, già lo credo. Anche del 9.40 per forza, anche se uno dovesse arrivare anche 10 punti S in meno, lo tassino va là, perché va là, non c'è niente da fare, già lo credo, a quel segnale lì già lo credo, sì. E vabbè, comunque non ha importanza, a me ne va bene, interessante che mi sentano poi. Gianni, io, più che altro, mi si è considerato, Gianni, ne volevo dire, Gianni, come hai fatto, ne provo con quel microfono, Boccazzi, allora non hai pensato di provare il 3009 con un altro microfono, per vedere se effettivamente la radio o se il microfono, no? L'ho fatta la prova, con la statica non l'ho fatta. Ah ecco, il 3009 con la statica non l'ho fatta, e beh, allora, evidentemente qualche problema c'è. Vabbè, domani ti diverti, ti abbi pazienza e te lo sistemi, va bene? Sì, ma giù. Il problema è questo, che col microfono col 3009 l'ho sempre fatto problemi. Adesso se lo stesso microfono che fa l'effetto sul 3009 lo uso sul gatto. Sì, Tio, ti sento. Ti sento sotto, però ti sento. L'ho parlato io. E allora chi era quello che ha parlato sino a Gianni? Qualcuno ha parlato? Va bene. Tutti quanti sotto accetto, ci siamo messi stanotte tutti sotto accetto, così per prepararci per il Covid, per la chiusura del Covid, per cui siamo... Gianni, mi ascolti? Birra, va bene già, dai, non è un problema, no? Sicuramente troverai qual è il problema. Sì, io ti ho sentito tante volte con l'MB25, con quel 3009 andava una meraviglia, anzi ti ho sempre detto che era la radio più bella insieme a quella del Galaxy, mi sembra che l'avessero detto più di una volta, no? Sì. Andava bene, vabbè, non sai cos'è, che non so da che parte cominciare, perché se tu lo provi sul Galaxy funziona, quindi no, escludo che sia il microfono. Se poi lo provi sull'altro apparecchio non funziona bene, metti un altro microfono e funziona. Come si spiega? Scusate un attimo, posso? Certo. Ok, ciao Giulio, ben entrato, ciao Tino e ciao Gianni. Mi devo allontanare perché stavo aspettando una persona che mi deve portare un pacco e quindi devo andare incontro, che non so dove abito al buio, vai. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Ia, va bene, qua, siamo qua. Avanti Tino. Via, siamo qua, dai, ciao. Vai Giulio. Ok, ciao, qua, dopo. Sì, ma in effetti è così. Oh Gianni, guarda, io stavo pensando invece, magari quando tu inserisci lo serotto nel bocchettone del baracchino, probabilmente c'è qualche pendino, qualche punta che lo fa perfettamente il contatto, perché uscire esce lo stesso, però è talmente bassa la modulazione che anche aumentando il volume riesco a sentirti molto ma molto basso, però uscire esce lo stesso, bassissimo ma esce lo stesso. Inizialmente parte bene la solita tua radio, però poi dopo la prima parola ti abbassi proprio definitivamente, ti sento io come un bisbiglio in poche parole, però sento quello che dici, capito? Che ho già e ho capito, adesso sto andando per esclusione, la batteria l'ho cambiata e l'ho messa nuova, ho controllato la capsula ed è saldata, ho controllato il PTT, ho messo anche il CRC per vedere se c'era qualche granellino di polvere e non è quello. Adesso Claudio mi stava dicendo di limare questi grumuli che si formano, quelle spurie che si formano quando fanno la plastica, e magari dà problemi quello lì, perché anche a lui dava lo stesso problema. È possibile, perché fa magari un po' di spessore e quello del baracchino magari ha bisogno di un contatto più approfondito, come cosa, più premuto, insomma, ecco, perché tocca e non tocca, è chiaro che a un certo momento potrebbe fare anche quel difetto. Sono mille difficoltà ci possono essere, però a trovarlo insomma ti dà un po' di fastidio, ma prima o poi già riesce a farlo, a trovarlo il problema. Allora sì. Scusate un attimino. Ok, sì, d'accordo, dai. Andare. Ho cercato, già, può essere che ci sia qualche punta del baracchino stesso che non fa contatto perfetto con qualche contatto che c'è lì, non si nota, chi lo sa, magari sarà quello, non lo so, prova a modulare, magari cercando di muoverlo per vedere se aumenta, se aumenta e tratteggia la modulazione, può essere che allora il problema è tutto lì. Io penso che sia così già. Non penso invece giù. Io non penso che sia così, perché se gli attacchi l'altro microfono funziona bene, avrebbe fatto anche con l'altro. Invece gli attacco la statica è perfetto, gli attacco il microfono normale è perfetto, gli attacco quello e fa questo difetto. Ho provato anche a abbassare il mic pensando che fosse troppo alto, nemmeno quello. No, forse non mi sono spiegato bene, io da sinistro a sinistro, da uno all'altro, ci può essere una differenza magari di contatto, che magari mettendo il microfono, l'MB più 5, lo si rotto, cioè i contatti di quel microfono, che quando lo piace sul 2009 tocca e non tocca, può essere anche così, capito? Mentre invece magari con quella Statec magari fa ben contatto, per il semplice fatto che magari può essere un pochino più spostato questo contatto, un pochino più grosso, insomma ci possono essere anche questi problemi. Lo so, l'elettronica ti fa impazzire, io lo so, perché lo so che è così già. L'elettronica è una bestianella, a trovare un piccolissimo difetto ti può uscire fuori di testa, però piano piano arriva, dai. Ma adesso perché ti sei abbassata, hai cambiato? Ho allontanato il microfono, mi sono spostato al microfono. Ah, ecco, non pensavo che avevi cambiato il microfono, invece no. No, già va bene così, perché ti sei abbassato radicalmente poc'anzi. Già va bene, io lo so, già a lungo andare queste apparecchiature, un piccolo problemino te lo crea, no? Perciò però sono cose fattibili, non è un problema. io lo stesso, cosa, io adesso se tocco qui qualche cosa qui nel carro è guai, perché mi sta dando pochissime batte, ma pochi veramente. Se dovessi avere tutti i watt, allora sarebbe diverso, ma non è che mi interessa, però mi dà fastidio, ecco, il problema è sempre quello. Non mi interessa però non sapere che non posso, volendo fare, avere più watt, mi dà fastidio, perché? Perché non funziona. Ecco qua il discorso già. Lo so, siamo fatti così. Scusate, volevo avvisarti, Giulio, io mi sto cambiando, ma c'è un importante quando parli, Purtroppo io non la posso sentire quando parlo, cosa vuoi che ti dica? La portante è molto forte oggi, qua. 5 punti in più di te, 9,25. Ma no, qua passa Giulio. Vuol dire che c'è qualcuno lì. Passa Giulio. Oh, si sa. Non passa Giulio. Passa. Senti, 5 più di... No, qua no. No, non mi senti. La vedi la portante? No, qui non arriva, proprio zero completo qua. Anche qua c'è una portante. Segnale... Cos'era? Segnale 5, segnale 7. Ha passato tutti, Qui non arriva proprio, qui vuol dire che qualcuno lì vicino a te o qua, sicuramente è lì vicino a te, perché qua proprio non arriva, zero completo. 9,25 qua è, 9 più 25, passa solo Marco e boh. Qua passate tutti, qua è segnale 7. 9,25, qua passa solo Marco o Condor, gli altri niente, ok? Io sto uscendo. Bundurundu, arrangia di du. 9 più 10 qua. Qua niente, qua non arriva proprio. Vuol dire che è in quella zona lì. Sarà magari al quadrato, che ne so. È mirata a Giulio, è mirata a Giulio. Tu che sta facendo l'imbecille. Ma che se ne frega? Non mi scrive mandare, che se ne frega. Figurati. È mirata a Giulio, Marco. Lui? Ma sei fede? Sa, non ha già di bisare, ma chi mi poteva cambiare i taglienti? Lui? Vabbè dai, avanti Giuliano. Ciao, ma futuro. Ciao a tutti, non ti sento Giulio, è mirata a te, basta, ciao a tutti. Vabbè, lascialo continuare, lascialo fare, che lo facciamo a pezzi, non ti posso dire altro. Dai Gianni, date il passo, dunque. Sono qua, cosa è successo? Portante a Giulio. Se non arriva una colata, cosa vuoi mettere, portante a Giulio? Non arriva qua non arriva proprio il segnale, io non lo vedo, la verità, non sapevo cosa dirti perché non lo vedo proprio, non vedo il segnale io qua, nulla, proprio zero. Vabbè dai, lasciamolo fare, vuol dire che dalle parti di Claudio sarà magari lì al quadrato, qualcuno in macchina, che ne so, boh, o qualche altro in zona, lasciamolo fare, non è un problema, non è un problema per me, avanti Tino. Allora, a me è parso di vedere una portante, ma era Santiago 7, non credo che sia indirizzata a te, sicuramente vorranno annullare la ricezione a Claudio. Provate che sia così, ma se dico il Maduro mi ha detto che stava mettendo una portante quando parlavo io, magari se parli tu, provate che non la mette, o se parla Gianni, che ne so. Non so cosa dire, ti ripeto, qui non le vedo io segnale, per cui non so cosa dire. Va bene, dai, avanti Gianni. No, qua passi tranquillamente, se mi avessi la portante. Sicuramente, adesso, buona alta, passate tutti tranquillamente. E vabbè, vuol dire lo valuta chi fa. Vuol dire a moglie se la c'è fuori di altri. Infatti vuol dire che dobbiamo dare fa, ma se proprio dobbiamo dare fa ci buttiamo a lucemi, così almeno si impegna un pochino a fare qualcosa, lasciamolo fare, non è un problema, qui non arriva, perché ciò non mi interessa. Va bene, dai, avanti Tino. Sì, dai, riprendo io perché devo muovere la radio, che devo fare delle faccende in casa. E poi niente, ne approfitto a farmi anche una voce alla vostra voce. Dai, se coincide ci siete più tardi, ok, se no ritenetevi salutati e niente, rilancio il mic a Gianni, così aspetto i saluti e poi vado via, dai. Caretti, ti saluto cordialmente, buon Corretti e buona continuazione di serata. Avanti Giulio. Ok, già. Ciao Tino, ci sentiamo allora, alle prossime, dai, grazie per la chiacchieratina. Sì, Gianni, tutto sommato il dispetto non è che lo stavo facendo a me, lo stavo facendo a Claudio che lo ascoltavo, a tutto lì, perché voi mi sentite, io vi sento, per cui il dispetto era a Claudio, non era per me, sì, quando muovevo io, ma era il dispetto, io lo vorrei girare contro Claudio, non contro di me, perché l'importante me la metteva quando parlavo io, ma lui non mi ascoltava, ma siccome io con voi parlo, voi parlate con me, problemi non ce ne sono. Io ritengo che allora il dispetto era di volta Claudio, io penso così già. Purtroppo è così, cosa ci vuoi fare Giulio? Niente di particolare, non è un problema. Ma Claudio, dunque Claudio è uscito, di conseguenza no, nemmeno col problema, nemmeno con la soddisfazione può avere, già, nemmeno quella può avere la soddisfazione, devo far ascoltare Claudio. Vabbè, Luca. Aspetta un attimino, non esiste proprio, non ti fa niente, non fa niente a nessuno. Vuol dire che magari non ti vuoi far sentire a Claudio. Può stare tutta la sera lì mettendo la portanza, non ti fa niente, tranquillo, parla tranquillamente. Da me passi, poi dai fatti non lo so. Vabbè, da te passo, da me passo, da te io passo, eravamo solo noi, c'era anche Claudio, casomai non ascolta Claudio, ma Claudio al momento ha mollato la radio perché è dovuto uscire, dunque non ha nemmeno quel problema di non ascoltarmi, per cui noi ci ascoltiamo e va bene, così possiamo continuare tranquillamente. Va bene, vai Gianni. Mi sa che faccio il Corretti, che devo portare giù il cane, mi devo ancora preparare, mi faccio da mangiare e poi lo porto giù, da. Ragazzi vi saluto, magari se ne ascolto perché faccio le cose e poi vado giù. Ok, buona serata a tutti, dopo il Corretti. Ok già, ci sentiamo allora, dai, grazie per la chiacchierata, alle prossime, dai. Io ero sempre all'ascolto, non è che avevo molta voglia di parlare, però sono voluto entrare un attimino almeno per salutare e dunque va bene così. E poi Luca. Continua. Aspetta un attimo, oggi ho una chiamata a mio fratello, aspetta. Ok. Allo basso. Anche tu ci sei, io Marco. Benvenuti, buonasera a tutti. Restati a uno qua, abbassa per la QRM, boh. Ciao Franco, ben entrato, dopo un bel po' di tempo ti presento, avanti Franco. Sì, lo senti, è un segnalino c'è qua, sicuramente non è dalle mie parti, da. Un abbraccio a tutti, circolare. Ciao, ben sentito anche a te comunque Giulio, fa piacere sempre sentirti. Ok, fra. Sì, dicono che c'è questa portante, io la verità non lo sento, per cui no, non c'è problema, ma era più che altro mi annullava lì da Claudio perché dice che aveva un segnale più forte del mio, per cui, ma tutti gli altri mi sentivano, perciò non. Non è così preoccupante la situazione, fra. E allora, come va? Va bene, ogni tanto accendo per sentire gli amici, dai. Che c'è? Luca? Saluti a Luca, Gianni, poi chi ci è rimasto? Claudio dice che forse si è allontanato, ho capito. Sì, Claudio è dovuto uscire per una commissione, dunque ha abbandonato la radio al momento, non c'è a casa. Va bene, no, c'è Luca in questo momento, Gianni che ha chiuso, o appena chiuso, Tino che aveva appena chiuso precedentemente a Gianni, siamo praticamente rimasti noi tre, ma c'è Marco anche, mi sembra che c'è Marco, sì. Sì, sto mangiando però, dai, quindi bianco per me. Ehi, buon appetito Marco, lì, un abbraccio anche a te. Ehi, ciao Fran, saluto a tutti, ero l'ascolto. Dai, a dopo forse, ciao. Ok, ciao Marco, a dopo eventualmente. Sì, io è così, io lo fa. Cosa si vuoi fare? D'altronde siamo qua a casa, sperando che i tempi migliori, ma riguardo di contagi e non peraltro. Poi per il resto, grazie a Dio, già sta filando tutto liscio. speriamo che continui così, niente di particolare, non so cosa dire, poca attività in baracchino, siamo sempre in due, tre, qualche volta quattro, ma non più di tanto, avanti fra. Pochi, poi c'è qualcuno sempre in mezzo e rompe le scatole, dai. Il cretino esiste sempre, lo sappiamo, il cretino non fa altro che prendersi quelle soddisfazioni così magre, meschine, soddisfazioni meschine, come meschino lui e meschina anche la soddisfazione che si prende, niente di particolare, non sappiamo, no? Gli elementi come sono, li conosciamo, abbiamo una certa età, di conseguenza abbiamo imparato qualcosa nella vita, non molto, ma qualcosina abbiamo imparato. Va bene, dai, fra. Ho fatto un'altra antenna che devo provare, e questa volta mi sembra anche più perfetta, ecco. Più perfetta nel senso come è stata messa in opera, tutta lì, addirittura la bobina coperta, e vediamo un po', però la devo ancora installare, tirare giù questa che c'è adesso e montare un'altra per poterla appunto provare e vedere un po' qual è la resa, se era come quella che avevo prima, mi riferisco a quella autocostruita che sino a due mesi fa avevo, due o tre mesi fa avevo, e vediamo un po' come funziona questa. Avanti, Franco. Kappa, poi mi farei sapere, dai. Poi mi hai fatto anche una per, non so se è una bibanda per 144 e 430, se non sbaglio, dai. Vediamo un po', Gianni, doppio rumor. Si era allontanato per andare a portare il cane, a preparargli la cena al cane, poi lo portavo a passeggio per un po'. No, ci dovrebbe essere Luca, c'è sì. No, si è allontanato anche Luca. E va bene, dai. Sì, avevo fatto anche quella, ma sì, l'avevo provata, va bene, altro che, non c'è problema. Io non ho mai installata, perché mi mancano due cavallotti e dunque io non sto uscendo, sempre per i motivi che tu sai, per la paura dei contagi, eccetera, e mi servono due cavallotti per poterla attaccare a un palo, niente di più, però l'ho provata così in maniera provvisoria e funziona, mi hanno sentito abbastanza bene, vedo che funziona. Un pezzo di filo, niente di particolare, ma un pezzo di cavo RG58, ho spelato la metà eliminando la calza e poi il resto, c'è un pezzo di filo e un piede, basta, niente di più. E l'ho inserita dentro una verga di quei tubo rigido da elettricista, era 25 mm di diametro, tutto lì, niente di particolare. Quella l'ho fatta anche io, ma è senza bobina sotto, senza, la mia c'è la bobina, un paio di giri di bobina, è che io la provo qua davanti alla finestra, è inutile, non è lì che si provano le antenne, però qualcosa la sento in ogni caso. E poi su c'è messo un pezzo di carta stagnola, ci vuole, dove c'è la giuntura mi sembra, dove è spellato, lì ci va un pezzo di stagnola, in quella che ho fatto io. No, io sì, la bobina l'ho fatta, 9 spine su un tubo da 25 mm ho fatto, e anche perché me l'aveva consigliato Luca anche di fare così, sì, diciamo che meno male li avevo visti anche al computer come si fanno, però Luca mi aveva consigliato fai così e vedrai che ti funziona, lui ne fa di tanti tipi, di tante misure, e tu fai quella misura e vedrai che funziona, e funziona, sì, in effetti è vero, funziona. No, è un pezzo di cavo coassiale da un metro, oltre la bobina praticamente un metro, no, nemmeno un metro, sono 45, 90 centimetri oltre la bobina, però 45 centimetri, i primi 45 centimetri, quelli che vanno più in alto, praticamente ho eliminato la calza e tutto il resto l'ho lasciato, l'ho infilato dentro questo tubo, l'ho provato con un PL e funziona alla grande, no, non c'è problema. Quindi hai spellato, metà antenna hai spellato, quindi i primi 45 sono spellati, ci rimane solo il polo centrale, dai. Poi tagli tutto il resto e poi scende per altri 45 e poi da lì ti inizia la bobina, questi 9 giri, giusto? Esattamente, proprio così, esattamente, proprio così. Certo, all'interno del tubo, per non far appoggiare il cavo al tubo, ci ho fatto dei dischetti in plastica, l'ho forato e ho infilato il filo dentro questi, e dentro praticamente il filo rimane centrale al tubo, niente di particolare. Magari non farà niente quello, però questo è considerato che almeno Luca mi aveva consigliato di fare così, e così ho fatto, e ho visto che funziona abbastanza bene. No, io quelli non li ho messi, ho messo, mi ricordo, poi su ci va un tirantino in nylon isolato per mantenerla, diciamo, in tira in verticale, dai, e poi il tappo sopra. Esattamente, ci avevo messo io un tappo di bottiglia d'acqua minerale, niente di, va bene così. Sì, io non ho avuto bisogno nemmeno di mettere il filo di nylon per tenere su il cavo, perché ho fatto quei dischetti di plastica talmente precisi che poi i dischetti, il dischetto soprattutto quello superiore, l'ultimo, entra talmente preciso che il cavo me lo tiene teso, e cioè abbastanza dritto, senza bisogno nemmeno di utilizzare un filo di nylon per poi toglierlo fuori e inserire il tappo. Tutto lì Sì, ragazzi, le misure di quella non me le ricordo. Perché posso rismontarla, date un attimo. Contare le spire se le ho fatte uguali, le misure se sono le stesse. Però ripeto, io ce l'ho qua sempre davanti alla finestra e sì, qualcosa la sento, però la parte tua per esempio non la sento perché tu sei alla parte opposta del palazzo, capito? Però quindi i tasti li sento bene tutti. Ok, sì, è bene, certo. Secondo la posizione è chiaro che non è che sia così funzionale, però certo, se è sulla finestra, magari spostando da un'altra parte, da un'altra finestra, probabilmente riesco a sentirti e a sentire tu me. Io penso che sia così, perché quella frequenza lì è sempre una questione di posizione, trovare il banco giusto possibilmente per ogni direzione, però non è facile, dai. L'ideale sarebbe metterla sul tetto, l'ideale sarebbe quella, Ufra, metterla sul tetto, ma tu mi avevi detto qual era la tua difficoltà, per cui il discorso diventa un pochino più difficile. Beh, capo, là, ci accontentiamo, oggi cosa vuoi fare? Facciamo intanto qualche esperimento e via, ci passiamo il tempo, là. Ci divertiamo. Ok, avanti, che ha salutato Franco. Gianni, sono, ho detto, pensavo fosse alle 8:20, invece sono le 7:20. Cavolo, pensavo che fosse più tardi, dai, rimango un altro po', sino alle 8. Sono rientrato anch'io, ciao Franco. Capa, ciao Gianni, ciao Luca, vi ho poco fa, vi ho rilanciato, ma non c'eravate, forse vi siete un po' allontanati. Tutto bene, ragazzi? Avanti, Luca. Tutto bene, quello che va bene, là. Tutto a posto, sì. Ma sì, dai, non ci lamentiamo. Qualche caso ci sente anche al lavoro da noi, però niente di serio, secondo me la maggior parte delle persone lo passa, neanche se ne accorge questi problemi qua di Covid, dai. Sai, se no già essere una cosa un po' pesantuccia, avanti Gianni. Ci sono già gli ospedali che sono intasati, non ti dico qua. Poi vedi il video girati a Olbia, è un deserto, invece non vedi nessuno, vai a comprendermi tu. Meglio stare segregati in casa, io sto uscendo solo a portare il cane a fare la spesa, dopo me ne torno a casa. No, io la verità non dico quasi normale, che uso la mascherina, uso precauzioni, tutto lì. Ma ho visto un video addirittura girato a Stoccolma, addirittura lì non è stata mai usata la mascherina e non la stanno ancora usando. Eppure il picco è sceso, è giusto un po' all'inizio, è salito, poi loro mantengono le distanze, la mascherina non la usano perché secondo loro addirittura è peggio, perché uno ti dà una falsa protezione che non hai, capito? Invece bisogna tenere le distanze e le regole base, dai. E dicono anche che respirare l'alito che butti fuori fa male, che non defluisce l'alito. Insomma, che ci respiriamo l'aria che dobbiamo buttare fuori, la respiriamo di nuovo. Certo, io a volte me ne accorgo quando facciamo viaggi lunghi in macchina, un po' di mal di testa ti viene, cioè ti manca l'ossigeno al cervello perché ti respiri l'anidride carbonica che dovresti buttare fuori. fa in macchina io me la tolgo, fra, dico la verità, quando sono solo me la tolgo. Ma noi viaggiamo a moto con quei colleghi e la devi tenere. Un casino. Vabbè, comunque, in ogni caso, è a fortuna, mi fa, c'è gente che ha già tutte le precauzioni eppure si è abbigliato romantesi, come se è successo non si sa, però usando tutte le precauzioni ce l'ha preso lo stesso. Ma lontano dal mio. Ehi, Giulio, e lo dovevi fare, speriamo bene, dai. Tutta quanta fortuna, vabbè, da Puggi e Riscotti ce l'ha presa, vedi. Sì, neanche la mia amica, l'insegnante, l'ha presa, però sintomi leggeri, mancava il sapore, l'olfatto, febbre quasi nulla, anzi forse nulla, e basta, un po' di tosse qualche giorno, ma ha ripreso a mangiare subito, adesso sta solo aspettando i tamponi e basta, che lì che perde tempo. I tamponi dovrebbero fare i medici di famiglia, così almeno un po' di saturazione all'ospedale la tolgo. Non lo so, no, l'altra azienda li fa invece, sia i tamponi che i sierologici, gratuiti, da. I tamponi che fanno nei laboratori privati non sono quelli che fanno all'ospedale. No, non lo so dove ci manderanno noi, ma sempre facoltativo è chi vuole aderire. E poi dopo lo scalo stipendio. Tu bagato, eh no? Lui. Fate tutto bagato così. Via, per carità. Saturando sto, no? Sono lì, tranquillo. Perfetto. Vabbè. Perché sto agganciato. Ho detto, io non faccio manco il vaccino, non le voglio fare. Sono alla prova, hanno fatto questi vaccini troppo in fretta, se escono a dicembre, sono cose fatte con velocità e non si lasciano sempre il tempo che trovano. Non dobbiamo fare le cave a loro. Un attimo di bianco, mi stanno chiamando. Fatti già, ma rimango con il forzo. Comunque ti posso dire una cosa. Io sapori non li sento, vabbè, io ho un problema con il naso, ma con gli odori. Sono tornato. Già da prima. Già da prima, ma da prima sempre, da qualche anno. Io sicuramente con la visita l'avrò passato, non lo so. Quando ho avuto quel problema all'intestino, che andavo di colpo, cioè sono andato di colpo un po' di volte, ma un giorno boh, forse 10 volte. E poi ho fatto anche sangue. Secondo me, io sono già avuto. No, non penso. Giulio? Sì, sono tornato. Sai cos'è, Giulia? Ci sono tante versioni che ti confondono la mente con tutte queste cose che dicono, poi vai tu e capisci in realtà, però senz'altro la protezione della mascherina, la distanza e la pulizia delle mani continuamente, questo è importante. Adesso stanno decidono domani, credo. Addirittura le persone che hanno i 70 anni non devono uscire da sera, ma dico io, a me mi sembra che il pericolo viene dai giovani, non dagli anziani. Cosa vuoi che dica? Fanno dei protocolli proprio da imbecilli, secondo me, queste gente che non hanno ancora capito niente. Perché se avessero loro ho continuato per ancora per un'altra quindicina di giorni, dopo che era calato tutto la curva, eccetera, probabilmente non saremmo stati a quella questa di vendere, soprattutto se non avessero aperto le discoteche e queste cose qua, perché chi ha rubinato tutto poi l'introduzione delle vacanze, l'apertura delle discoteche, tutte queste cose qua, e praticamente l'incoscienza della gente, perché sono stati tutti incoscienti, non certo io, perché io a ballare non ci sono andato. Avanti, Luca. Ma infatti, tutto un casino, tranne peggiorato. Peggio per loro, fanno entrare cani e porci per farsi le figlie, peggio per loro. Vanno a chiudere aeroporti e porti dall'inizio, poi la gente così l'avrebbe contagiata, non sarebbe andata a dire che eravamo tutti noi. Non ho capito. E vanno a dire che contagiamo lui, invece sono loro che hanno contagiato a noi. Perché sono una massa di bastardi, sono una massa di bastardi, perché hanno preferito l'egoismo al denaro, tu mi dirai, ma devono anche lavorare, certo, ma ancora non eravamo in condizioni di aprire le discoteche e di fare assemblamenti come si sono fatti a Movide e Balle Varie. Il problema è stato quello, il problema è grosso, perché prima loro non hanno bloccato il problema, e allora ce lo dobbiamo rincorrere, e a rincorrere adesso è molto ma molto difficile, perché questa è una cosa che durerà molto, ma molto. Io mi auguro di no, anzi mi auguro di avere torto, ma sono più che convinto che questo contagio durerà anche tutto il prossimo anno, vedrai, speriamo di no, speriamo che io mi stia sbagliando, ma nelle condizioni in cui agisce l'Italia, soprattutto chi comanda al governo, perché sono degli incapaci, degli incompetenti, per cui non sanno amministrare, lasciamole fare, cosa volete dica già. Comunque vediamo un po', poi ci aggiungono quelle frange di delinquenti che vanno a scioperare per fare, sì, io capisco che il lavoro uno deve avere, però se tu ti sacrifichi un pochino, perché tutti ci dobbiamo sacrificare e accettare la condizione del momento, invece no, ci sono quelli facinorosi che vanno in giro a spaccare vetrine, a bruciare auto, a sfasciare di tutto, ma quando mai? Quelli sono solo una frangia di delinquenti, poi dico estrema destra, no, ci sono anche gli estremisti del comunismo, della sinistra, ci sono anche giro, non solamente quelli di destra, ci sono anche quelli di sinistra, gli estremisti delinquenti. Quelli li chiamo tutti delinquenti e basta, non c'è né destra né sinistra, quelli sono persone che gli piace, che trovano l'occasione per fare casino, per distruggere tutto, e non so se siano di destra o di sinistra, ma sono persone, sono proprio delinquenti e basta. Appunto, per non incolpare né la destra né la sinistra, io dico che sono di destra e di sinistra, perché ci sono sicuramente gente che è favorevole alla destra e c'è gente che è favorevole alla sinistra, di questo non ci sono dubbi, non si rendono conto che stanno facendo un anno alla gente che lavora, e poi loro vanno a fare manifestazioni in piazza per cosa? Per proteggere il lavoro, ma se siete i primi a rovinare i lavoratori, spaccando vetrine, spaccando macchine, spaccando di tutto, ma non lo so io, facendo la guerriglia contro la polizia, perché la polizia non sarà un lavoro, non saranno lavoratori anche quelli, non è possibile già, quelli sono solo delinquenti e basta, poi destra o sinistra o balle varie, sono sempre delinquenti, non c'è dubbio, come ce ne sono tanti anche in Parlamento. Avanti Luca. Luca hanno appurato che sono di casa Paolo, li hanno già arrestati. Un attimino, mi assento, ok, appunto te lo sto dicendo, guarda che i primi disonesti sono proprio nella politica, Gianni, sono proprio nella politica, perché se avessero avuto una coscienza un pochino più pulita e sarebbero stati più onesti, queste cose non sarebbero successe. Grazie, se no a questo punto bisogna dire, bisognerebbe che ritornasse Mussolini, cose assurde, cose inutili da dire, però a questo punto ci vorrebbe una bella dittatura come c'era prima, come c'era una volta, come mi raccontava mio padre, per dire, quando lui era giovane, quando lui era giovanotto, per dire no, oggi ci vorrebbe il posto del genere, ci vorrebbe, perché non è possibile che tu permetti alla gente di andare lì a distruggere, ma non c'è da andare. Ma non lo vede che ti mando la polizia col mitra e sparo nel buco, voglio vedere cos'è che dice se scappi. Non è possibile che tu invece permetti queste guerriglie, perché questo qui significa permettere delle guerriglie, perché tu che permetti al popolo di affrontare le forze dell'ordine non stai facendo altro che permettere una guerriglia, una guerra civile, poveri contro poveri, non è possibile, guarda già. Allora, il problema è questo qua, io ho ascoltato bene i telegiornali e hanno detto i commercianti che la loro doveva essere una manifestazione pacifica, quello che è successo dopo non c'entrava assolutamente con loro, questi gruppi sono andati solo per far casino e hanno catapultato tutta la protesta, perché loro dovevano andare per protestare pacificamente. Poi questi gruppi qua non gli sembra vero di fare rivoluzione, di fare il casino, di spaccare il vetri, eccetera, eccetera, di andare contro la polizia, e allora trovano le occasioni per fare queste cose, ecco cos'è. Però dovrebbe essere una manifestazione vista a Sassari, che non è successo nulla, hanno fatto la manifestazione tutti tranquilli, non è successo manco un battastrancio, niente. E tutti temevano che succedesse cose, invece ho visto che si sono comportati molto meglio di tante altre parti. Ma sicuramente, già, sicuramente. Infatti è così che si fa, si deve fare manifestare per qualche motivo, deve essere pacifica la manifestazione, ma ci sono quelle frange di delinquenti che ne abusano, ne approfittano proprio perché è disordine. Per fare danno a chi? A chi sta lavorando? A chi sta lavorando? Perché, incominciamo, le forze di ordine stanno lavorando, perché non sono lì per giocare, non sono lì messi apposta per fronteggiare loro, stanno lavorando, ecco, perché devono mantenere l'ordine. I commercianti che hanno i negozi con le serrande, con le vetrate aperte così, cosa fanno? Vanno e spaccano tutto, ma non è possibile, già, non è possibile. Oppure tu che ti trovi la macchina lì, magari te la incendiano, o cassone della Mondezza, tu ci incendiati, cose, panchine di velte. No, non è possibile, guarda, accettare una cosa del genere, è questo che non capisco io. Come mai lo Stato, il governo accetti tutte queste cose? Lo Stato queste cose le deve abolire, non le puoi accettare, perché ripeto, sarò cattivo, sarò quello che vuoi, ma io avrei dato gli ordini col mitra, tu entra col mitra e vedrai che la folla gli passa la voglia di fare gli imbecilli, perché guarda, loro con bastoni, con le matte da baseball, con le bombe molotov, caspita, e i poveri lavoratori, mi riferisco sempre ai poliziotti che ci difendono, che hanno tutto il dovere di difenderci, anche se perché sono pagati, e però tu non puoi andare contro di loro, perché loro sono dei lavoratori come chiunque, perciò non puoi fargli la guerra tu, ai lavoratori stessi. Capisci cosa intendo dire oggi? Lo capisco, ma loro non è che hanno, secondo me, non hanno motivo per fare queste cose, sono violenti e basta, Giulio, non è che loro hanno motivo per andare contro i poliziotti o contro chi altro. Sono violenti, gli piace la violenza, gli piace scaricarsi, forse rabbia che c'hanno, che ne so, e la scaricano con la violenza, capito? Perché la manifestazione, ripeto, doveva essere pacifica, qua hanno detto i commercianti, cioè noi volevamo fare una manifestazione pacifica, non so da dove siano usciti questi, magari non sono manco del posto, capito? Appunto, sono violenti, ma te bisogna ragazzi, perché la gente che per protestare deve andare con le bombe molotov così, con le bombe a mano, se le butti lì sulle forze dell'Unione, ma puoi scherzare, ma io queste cose non le avrei permesse, ma nella maniera più assoluta. Tu mi dirai, ma vuoi fare il dittatore, ma no, pensala come vuoi, ma queste cose io non le avrei permesse, ma non sono di tirare le bombe molotov così alle forze dell'ordine, caspita, non so, cose più brutte di quelle, io penso che non ce ne possono esistere, non è possibile che tu permetti queste cose, no, io queste cose le do la colpa, la do al governo, perché il governo queste cose le può evitare volendo, solo che non le evitano, non so per quale motivo, sarà un fatto politico, sarà quello che vuoi, so solamente che non lo evitano, mentre invece non dovrebbero permettere certe cose, in una maniera più assoluta, a parte il fatto che per fare le manifestazioni ci vogliono sempre i permessi, ci vogliono, invece loro abusivamente si mettono qui, si radunano e fanno i delinquenti, ma vogliamo scherzare, no, guarda, la violenza solo in un modo la puoi risolvere, sempre con la violenza, naturalmente con più forza, questo è ovvio. Ora io mi ricordo che negli anni 70, quando c'erano questi manifestanti, che tipo l'autonomia operaia, tutti questi manifestanti che facevano casino, usavano l'idranti, quando facevano queste cose con l'idranti li facevano volare in aria, c'era poco da fare, quando usavano l'idranti tutti quanti scappavano, c'erano una potenza, erano hanno tipo carro armati con l'idrante. Anche l'idrante, certo, anche quello, a secondo di quello che combinano, se è necessario, è proprio la forza brutta, addirittura la forza brutta ci vuole, proprio se è necessario, perché finché tu manifesti pacificamente hai diritto alla protesta e va bene, non che poi tu ti metti a ingiuriare la gente così, prendetela contro ma chiunque, oppure a uscire con le mazze da bevo in giro, ma noi dobbiamo scherzare, ma quando mai, ma cosa da fare sono? Queste sono cose, sono la persona delinquenti, sono delinquenti, tu mi dirai, ma questa gente, ci sono magari, non so, 3-4 mila persone, 5 mila persone protestando, non è che sono tutti 5 mila delinquenti, indubbiamente no, ci possono essere 100-200 persone delinquenti, però poi alla fine cosa succede? Che sono tutti quanti manifestanti pericolosi, perché ci sono tutti insieme, perché sono tutti insieme, per cui queste cose non le avrei permesse nella maniera più assoluta. E io sono convinto che lo Stato, se vuole, può guidare la nazione come si deve, solo che non sono capaci, non hanno le capacità per poter fare certe cose in maniera pulita, o già non ce l'hanno assolutamente, come se le fanno per questioni politiche, questo è un altro discorso, però non hanno, io sono più che convinto che sono incapaci, assolutamente incapaci di amministrare, io la penso così. Diciamo che non è facile con questa pandemia che c'è, non è facile anche amministrare, decidere, adesso non so, Conte doveva fare un discorso stasera per Solissi, non so se l'abbia fatto per la questione della pandemia, voleva mettere delle restrizioni, non so se l'ha fatto, però stiamo andando e peggiorando qua, e bisogna darsi una mossa, bisognava darsela da prima, magari chiudere un mese in più e poi stare tranquilli, capito? Invece abbiamo esagerato ad aprire, abbiamo voluto aprire, sì, io capisco tutti quelli che sono senza soldi, che non guadagnano, lo Stato dovrebbe aiutarli, non solo a parole come hanno fatto e non gli hanno dato nulla, dovrebbe aiutarli veramente, almeno uno stipendio a testa li dovrebbe dare, perché almeno quello dovrebbero averlo, ma dicono e poi non fanno mai nulla, perché molta gente non ha ricevuto soldi. Infatti è così, promettono e poi non danno mai niente. Adesso vedi, adesso in quest'ultimo protocollo che hanno fatto dice non puoi licenziare. Perfettamente d'accordo, non puoi licenziare, io sono d'accordo che non si devono licenziare, però è il governo che deve intervenire e pagare, perché se un'azienda non licenzia e quindi non lavorano, ma lo sai dire che come può fare andare avanti un'azienda? L'azienda non può andare avanti. Tu non li licenzi, però sarò io Stato a dare soldi a te per pagare gli stipendi, perché non è possibile, invece no, non puoi licenziarli, nel frattempo il tempo passa e gli stipendi vengono dati ugualmente. E voglio vedere e metti quelli che consegnano per terra, metti le aziende. No, non va bene così, nella maniera più assoluta. È lo Stato che ci deve sempre pensare a queste situazioni, invece no, lo Stato non fa altro che caricarti di tasse e di addossarti le colpe e le spese, soprattutto a quelli che lavorano, perché soprattutto quelli che hanno la partita IVA sono quelli che ne subiscono le conseguenze maggiori, perché è sempre stato così e sarà sempre così. Ma cosa vuoi che ti dica già? Purtroppo siamo in un periodo bruttissimo, perché questo è un periodo veramente brutto, però non è così, non è così che si deve fare, assolutamente. Ma comunque cosa vuoi che ti dica? Facciano come credono, dipende, va. Vediamo se ci vuole entrare qualcuno, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Capa, rientro io, dai, che vi devo salutare che c'è gente. Un abbraccio, ciao Giulio. Non incantatevi però, intanto con questa malattia ci dovremmo convivere, secondo me, abituarci a conviverci. Ok, ciao Gianni, salutatevi Luca, se rientra, e Claudio e tutta la compagnia bella, dai. Ok, avanti Giulio. Ah, sei ritornato, non lo sapevo qua, solo che avevi lanciato. Pensavo che ancora eri assente. Vabbè, dai. Ciao Franco, allora salutoni, grazie per la chiacchierata. Dunque, ad esempio, avanti Gianni. Ciao Franco, dai, buona continuazione, grazie per il piccolo quesito. vabbè, magari ne parliamo un altro giorno più a fondo, dai. È che il discorso chi prende questo qua e non riesce a mollarlo così. Avanti. Non è facile già, non è facile, uno che ha nel buon senso queste cose le sente, perché le senti, io mi immedesimo in quella gente che non riesce a lavorare perché tu gli chiudi l'attività, eccetera eccetera, però purtroppo è così che devi fare, non c'è altra scelta, perché il contagio finisce solo esclusivamente avendo tutte queste decisioni, facendo tutte queste decisioni, se no non è possibile eliminarlo nella maniera più assoluta, ma l'abbiamo visto. Così lo stesso discorso per la scuola. La scuola sanno lo stesso, è importante. Hai visto la fine che ha fatto la scuola? Sono quasi tutte chiuse. Sono poche le scuole adesso che sono aperte. Non è possibile già. Io ho detto al momento, le scuole vogliono aprire. Addio, non finisce più. Questa situazione non finirà più. E in effetti è così. Invece no, allora cosa hanno fatto? Anziché dare la cassa integrazione ai lavoratori o pagare, che so io, le persone che rimangono a casa per mantenere i figli a casa, perché giustamente ci sono quelle persone, quelle mamme che lavorano e se mandi i figli a scuola puoi andare a lavorare, se il tuo figlio lo devi tenere obbligatoriamente a casa non puoi andare a lavorare, e allora paga lo stesso, tu Stato devi pagare, perché se tu il primo a pensare a questa situazione devi essere tu, invece no. Cosa hanno fatto? Ha aperto le scuole, 400 milioni sono per i banchi con le rotelle, altri 200 milioni circa per i monopattini. Ma quei soldi perché non li date a quelli che sono in casa integrazione da mesi e mesi, che stanno sempre aspettando? Alla povera gente che non sta più lavorando, che non ha più uno stipendio, invece no, e va che con le rotelle ha comprato, oppure monopattini, una vergogna, poi c'è il pacchetto arrabbi, ma è chiaro che uno si arrabbia quando sente queste cose, non è possibile già. Bonus di 500 euro anche per il computer. Anche per quello, ma almeno il computer se non altro la sua autorità ce l'ha. Ma i monopattini, a che cosa servono? Te lo dico io che cosa servono i monopattini, a creare incidenti stradali, come ne sono già successi tanti, ne sono successi, magari più in là, anche i monopattini te lo fanno assicurare obbligatoriamente e così lo Stato incassa anche da lì. Ecco qual è il discorso. Le banche con le rotelle già l'abbiamo visto come già hanno fatto i ragazzi che hanno fatto l'autoscontro a scuola. Ma cose assurde, guarda, cose veramente assurde dell'altro mondo, non è possibile, ecco, solo a questo capisci che sono incapace, che non hanno la competenza per poter amministrare una nazione. Giulio, dai, ti lascio che è tardi, ci sentiamo, una buona serata, dai, sto aspettando che mi rilanciassi perché ho visto che è già ora, dai. Ci sentiamo, buona cena quando la fai e buon tutto. Saluto anche tutti gli eventuali ascoltoni, QRT per me, arrivederci. Ok, ciao Gianni, ciao. Buona passeggiata con le quattro zampe. E dunque ci sentiamo eventualmente domani, dai. Ok, adesso cerco di rasserenarmi un po', perché mi stavo quasi nervosendo, mi stavo con questo discorso, perché a me mi dà fastidio veramente pensare alla povera gente che ha bisogno, una città, e vederla trattata così da persone città, che nella loro vita non hanno mai fatto niente di concreto, hanno solo preso soldi e basta, mentre invece la povera gente che ha fatto dei lavori massacranti, capita, oggi si ritrova senza uno stipendio e senza un aiuto da parte dello Stato, una vergogna. Vabbè, ciao a tutti, ci sentiamo. Ehi Alù, sento un segnale anche sotto. Ti volevo chiedere, ma tu con l'antenna base 5 ottavi hai alterato qualcosa? Perché una volta mi sembrava che arrivassi 9 più 30, anche liscio. E adesso sì, 9 più 25. Ehi Buca, Marco, c'ho un problema all'antenna io. Quella lì l'antenna sarà da smontare, pulire, ripiazzare. Chi è che chiama Pomponi? Avanti. Avanti chi chiama? era un segnale medio, tipo un 7-8, non ho riconosciuto chi era nemmeno. Io mi stavo rilassando, mi stavo dando le istruzioni di una radio, tanto per cambiare. È una malattia, No, basta, finito questa radio io. Lu, ma ci credi che io me ne sto corteggiando altri? Ehi, fate la collezione. Sì, è proprio una cosa tipo, come si chiama quella cosa? Shopping ossessivo compulsivo. L'importante è, come dire, è possedere l'oggetto, perché si usi è secondario. Infatti, io per esempio ho 4 baracchini, alla fine cosa me ne faccio? Nulla. Sì, però è una figata cambiare apparato ogni tanto, dai, se sei sempre con lo stesso, è un po' un palosetto. È così, dai. Va bene, gli altri hanno tutti chiusi.